La versione di Oscar, Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, con questo mercoledì 25 di giugno, 16.35. Spero che il più tra voi si sia ripreso, magari quelli a cui non importa molto altrettanto dell'esclusione dell'Italia ieri. Non è stato un grande trauma, però per milioni di italiani lo è stato ieri sera. Spero che l'invito che avevo rivolto ieri, insomma, non facciamo che se l'Italia perde Caporetto, se l'Italia vince Vittorio Veneto, in qualche maniera ritengo che fosse azzeccato, perché nella marea di commenti sui social, in rete, eccetera eccetera, se ne vede di ogni. E secondo me il livello del calcio italiano è quello, ed è giusto quello che è successo, punto. Dopodiché potremmo a lungo parlare, ma in altre trasmissioni, sul sistema del calcio italiano, che cosa c'è dietro, cosa non c'è dietro, però i livelli in campo erano quelli, quindi a casa zitti, muti, ricostruire, e tutto il resto serve a poco. Allora, oggi è l'argomento di cui parliamo, è quello per cui vi invito a telefonare all'800240024 e a mandare gli sms al 349-238-6666, e quanto puntualmente è stato confermato nel testo della riforma della pubblica amministrazione, che finalmente è uscito, insomma, dopo due settimane dal varo in Consiglio dei Ministri. Siccome la legge italiana oramai è diventata quella per cui si varano decreti che si annunciano per capitoli e poi i testi vengono poi molto dopo, perché al Quirinale a quel punto inizia un esame vero del testo. E che cos'è che viene confermato in questo testo di riforma della pubblica amministrazione, che, come sapete, tocca molti punti, anzi troppo, perché nei decreti legge bisognerebbe farli su materie coerenti, ma noi ci infiliamo di tutto dentro perché è l'unico canale attraverso il quale i governi ritengono di poter trasformare il loro programma in cose operative. Ecco, abbiamo avuto la conferma che per quello che riguarda i magistrati, per quello che riguarda i militari, ciò che veniva toccato nella versione approvata in Consiglio dei Ministri, cioè il fatto che c'era uno stop alla protrazione in servizio oltre i 70 anni per questi gruppi di alti dirigenti pubblici, di alti funzionari dello Stato, ecco, puntualmente nel corso della revisione al Quirinale, ma guarda caso, lo stop alla protrazione in servizio viene meno. Prima si è detto nella prima settimana che c'era un problema di funzionalità degli uffici giudiziari, delle sezioni di tribunale al cui vertice ci sono questi magistrati anziani, o degli alti incarichi nella difesa ricoperti da militari che sono protratti in servizio, e sembrava che la deroga dovesse quindi riguardare solo loro. Invece poi all'ultimo secondo si apprende che lo stop al privilegio, perché è un privilegio rispetto a quello di tutti gli altri, non c'è per tutti, se ne parla l'anno prossimo, vedremo quando, eccetera eccetera. E il mio motivo di incazzatura è quello che viviamo in un paese in cui, ricordatevelo, il fatto che ci siano centinaia di migliaia di esodati noi l'abbiamo appreso solo molto dopo che fosse stato emanato e diventasse legge il decreto Fornero. Allora, che si scoprano centinaia di migliaia di italiani qualunque lavoratori esodati che si trovano nei guai per un decreto legge solo dopo, e dopo averlo negato all'inizio, ricordate tutte le polemiche. Mentre invece per gli alti vertici dello Stato, se c'è una norma che li interessa, si trova il modo di aggiustare i decreti prima al Quirinale, io credo che sia giusto protestare. Però magari mi sbaglio. E vediamo come la pensate voi, quindi telefonate e mandateci sms. Un'altra cosa voglio dire prima di presentarvi l'ospite, perché mi ha lasciato senza parole. Sì, questa è la radio di Confindustria, so perfettamente qual è la linea, io stesso sono per le imprese, per il mercato, però io ieri pomeriggio, apprendendo che la Fiat ha licenziato 4 operai di un reparto logistico che sta a Nola, perché in una protesta la settimana scorsa avevano usato un manichino di Marchionne, devo dire con pessimo gusto, appeso a una corda, mi ha lasciato senza parole. Non perché ritengo la loro manifestazione di protesta una roba nei limiti del gusto, ma perché c'è una storia dietro quel reparto, e noi ce ne siamo occupati un po' di tempo fa, quando io all'ennesimo suicidio di operai di quel reparto che sono in cassa integrazione da 6 anni, perché quel reparto, il VCL, logistica di Nola, è da 6 anni che sta in cassa integrazione, è una specie di reparto fantasma in cui sono stati trasferiti degli operai di Pomigliano e non è mai partito, e in quel reparto, dopo 6 anni di cassa integrazione, diversi operai si sono suicidati davvero. Uno Giuseppe De Crescenzo e l'altro fu Maria, che quando si suicidò, io ci aprii la trasmissione perché si era data molto da fare negli anni in iniziative pubbliche per i suicidi senza lavoro, e mi era capitato di incrociarla esattamente in una di queste iniziative. Allora, si può essere per le aziende e per un mercato del lavoro flessibile, contrattazione decentrata, come io sono, e contemporaneamente dire che secondo me licenziare operai che non lavorano da 6 anni e che hanno avuto colleghi suicidi per davvero, perché nella loro protesta legittima utilizzano un discutibilissimo manichino di Marchion, si può protestare dicendo che secondo me è il segno che la Fiat ha perso la testa e non ha senso della misura, perché lì i suicidi ci sono davvero ed è da 6 anni che la gente non lavora più ed è da 6 anni che gli si dice che questa roba partirà e non parte. Ecco, lo dico per metterlo a verbale, perché io non credo affatto che stare per la ragione dell'impresa del mercato significhi va bene tutto quello che fanno, perché tutti sbagliano, e secondo me quella decisione di ieri è una decisione che dà il senso della mancanza di misura che al vertice della Fiat hanno nei confronti di una disperazione che è figlia della crisi del mercato, ma che c'è in chi non lavora e che dopo 6 anni perde l'orizzonte di vita, non sa più come, se e quando mai tornerà a lavorare, magari a 50 anni e più. Fine di questa osservazione, ma la dovevo a Maria, che ho ricordato quasi in lacrime il giorno che ho appreso che si è suicidata, e oggi sono senza parole di fronte al fatto che per il dolore della sua morte altri vengano licenziati dopo 6 anni che non lavorano. Scusate, potete non essere d'accordo anche in questo caso. Allora, l'ospite con cui commentare invece quello che è successo nel decreto riforma pubblica amministrazione per militari e magistrati è un giornalista del Fatto Quotidiano, responsabile della redazione economia, Stefano Feltri. Grazie di essere con noi, Stefano. Ciao Oscar, grazie a te dell'invito. Che pensi tu di questa cosa che è avvenuta nel decreto riforma PA? Ma io trovo che sia tutto abbastanza incredibile quello che è successo in questo decreto, fin dall'origine, cioè il fatto che ci sia un decreto, una grande riforma di questo tipo che viene fatta per decreto, già questo non si potrebbe fare. Poi è un po' spiacevole che c'è un Consiglio dei Ministri ormai quasi 2 settimane fa che si riunisce, si conclude, vengono illustrate delle cose dal Premier e poi anche dalle 2 ministre coinvolte pochi giorni dopo e non c'è nessun testo. Ora, qui ci vorrebbe anche un po' di autocritica di noi giornalisti come categoria, perché per giorni abbiamo visto tabelle, infografiche, spiegazioni eccetera su cose che non esistevano, cioè io sarei del parere che noi dovremmo prendere l'abitudine che finché un testo non esiste nella sua versione definitiva noi lo ignoriamo, perché sennò diamo informazioni parziali quando non false. E tutto questo perché, allora, le ragioni sono tante, qui quella principale è che Renzi non ha un gran controllo della macchina organizzativa di Palazzo Chigi, sono tutta una serie di spiegazioni che se vuoi poi vedremo nel dettaglio, ma la ragione che abbiamo appreso con anche un retroscena autorizzato, quello del quirinalista del Corriere della Sera, Marzio Breda, mi pare ieri mattina, sia pur freddato da una nota del Quirinale che per chi conosce l'ufficialissimo Marzio Breda era veramente una cosa, la nota del Quirinale che diceva sue fonti noi non c'entriamo niente, è una cosa un po' inusuale. Sì. C'è questo comunque, diciamo, il retroscena era fondato perché è la stessa versione che davano anche i ministri del governo Renzi e tutti quelli coinvolti nella vicenda. Cioè il Quirinale a un certo punto ha detto vabbè ragazzi, voi avete fatto i vostri pasticci, adesso da qui ci pensiamo noi. Ed è un po' bizzarro perché il Quirinale non dovrebbe avere nessun ruolo nella fattura dei provvedimenti di legge, dovrebbe decidere si firmano o non si firmano. Poi la mia personale opinione è che un capo dello Stato che ha firmato un decreto che si chiamava IMU-Banca Italia a quel punto dovrebbe firmare qualunque cosa senza neanche aprirla, perché se ha firmato quello può firmare davvero tutto. Però questa è la mia opinione che non... Diciamo. Condivido. E quindi è tutto un po' bizzarro, cioè veramente gli uffici del Quirinale non dovrebbero riscrivere i provvedimenti. Ce la siamo presa per anni con la Ragioneria Generale dello Stato che faceva le pulci e che suggeriva le coperture, contestava le coperture facendo impazzire alcuni ministri come Passera, ma il Quirinale non dovrebbe mettere mano sui provvedimenti, non è scritto da nessuna parte della Costituzione. Allora, la frase finale, anzi la terz'ultima frase finale dell'opera fondamentale, per chi non la conoscesse il mio consiglio è leggetela, di un grandissimo, forse anzi secondo me il più grande giurista liberale italiano del Novecento, che non a caso poi trovò accoglienza e ascolto molto di più negli Stati Uniti che in Italia, si chiamava Bruno Leoni. Ecco, quest'opera, che quella più importante delle tante che ci ha lasciato, che si chiama La libertà e la legge, ed è tutta dedicata all'analisi del rapporto tra libertà e legislazione. Ecco, quest'opera si conclude con una frase che dice: la legislazione non può essere il risultato di decisioni di gruppi di potere alle spese di minoranze dissidenti. Non può, dice Bruno Leoni. Secondo me il caso generale sollevato da questo intervento al Quirinale e del Quirinale, perché avviene nel Quirinale perché i magistrati e i militari si sono rivolti al Quirinale, ma poi viene confermato con estato, ratificato dal capo dello Stato, a favore non di un diritto, ma della protrazione di un privilegio, di un'eccezione che rispetto al totale della pubblica amministrazione i magistrati e i militari si trovano ad aver confermato al Quirinale, pone esattamente il problema che ci segnala Bruno Leoni, cioè di una legislazione che avviene al vertice delle istituzioni, per carità bisogna dire che il capo dello Stato ha enormi meriti, eccetera, eccetera, eccetera, ma in cui si ratifica ciò che dei gruppi di potere, come dice Bruno Leoni, fanno prevalere a proprio vantaggio rispetto ai criteri generali della legislazione. Io penso che sia così. Adesso abbiamo 60 secondi di informazione stradale e poi però chiediamo anche a Stefano Feltri come la pensa un po' in generale su quello che lui ha accennato, cioè questi problemi di coordinamento, i testi, la squadra che è agli ordini di Renzi ma sembra di seconde e terze file per non dare ombra, e che poi naturalmente forse non è in grado poi troppo tecnicamente di servire bene l'attività ordinaria di creazione dei testi e così via. Questo è un problema o è un non problema? È meglio andare avanti in fretta per le tante riforme non fatte a costo di pagare questi prezzi, oppure invece si può e si deve fare diversamente? È meglio strade adesso. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta alle 16:49, 7 secondi. Grazie, devo dire la verità, per i messaggi che arrivano, anche per quei suicidi che ho ricordato, di quel reparto mai partito a nulla, e di chi capisce che il mio punto di vista è un punto di vista. Io critico spesso la FIOM, secondo me la FIOM sbaglia tantissimo, non c'entra niente essere pro a favore, contrari o a favore, significa avere misura però, ecco. E secondo me troppe volte la Fiat mostra di non averla, ma di fronte neanche ai morti ammazzati perché non lavorano per la difficoltà dell'azienda, non mostrarla neanche in quel caso, non lo so, mi sembra una cosa veramente al di là del bene e del male. Ma torniamo all'argomento del giorno, cioè quello che è successo nel decreto riforma pubblica amministrazione. Questa cosa che accennavi prima, Stefano, la qualità della squadra, quanto dipende dalla scelta, si è visto nella segreteria del PD, nella composizione del governo, da parte di chi è in testa a tutto, cioè Matteo Renzi, e quanto invece, non lo so, rispecchia anche il fatto che c'è un graduale abbassamento del livello tecnico, politico, eccetera, eccetera. Tu come la vedi? È un prezzo da pagare oppure bisogna cambiare? Ma allora ci sono due aspetti, uno generale e uno particolare. Quello generale è che Renzi ama avere intorno persone, neanche degli yes men, ma persone, come dire, non troppo, che non si mettano in mezzo nel suo processo decisionale, che sostanzialmente decide tutto lui, raccoglie gli input e poi alla fine decide. Questo ha fatto sì che in questi, diciamo, suoi 3 anni di presenza sulla scena politica all'apice non si sia costruita una squadra vera. Lui a Palazzo Chigi non ha consiglieri economici in questo momento, non ha neppure un portavoce, perché Filippo Sensi, che è il suo Totum, è dipendente del Partito Democratico, è formalmente il portavoce del PD, quindi ha un problema strutturale di questo tipo, che è probabilmente antropologico, psicologico, ma c'è una cosa specifica: lui ha fatto la scelta di non avere intorno consiglieri di Stato, cioè lui non ha voluto quelli che sono tradizionalmente i capi della macchina amministrativa, li ha proprio mandati via, ha mandato Questo Roberto Garofoli l'ha mandato al Ministero del Tesoro, era il capo della, diciamo, della macchina di Palazzo Chigi con Enrico Letta, e l'ha mandato via. Poi, stando ad alcune retroscena, addirittura voleva fare una norma che rendeva incompatibili i consiglieri di Stato con la carica di capo di gabinetto, che avrebbe fatto saltare anche da questa nuova posizione. Questo gli sta creando parecchi problemi, perché lui ha voluto come capo del legislativo a Palazzo Chigi l'ex capo dei Vigili di Firenze, che sarà bravissima, però sicuramente ci metterà un po' a integrarsi questa Antonella Manzoni. E io ho raccolto da funzionari di alto livello di Palazzo Chigi, proprio della macchina, non quelli, diciamo, politici, un po' di perplessità, perché dicono che stanno vedendo cose che non avevano mai visto, cioè interi provvedimenti che entrano in Consiglio dei Ministri e ne escono senza che ci sia stato un vero imprimatur politico, cioè senza che ci sia stato o Graziano Del Rio, che è sottosegretario alla Presidenza, o lo stesso Renzi, che hanno preso in mano questi faldoni li hanno guardati, perché prima, diciamo, tradizionalmente c'erano questi preconsigli dei ministri in cui si mettevano appunto i dettagli tecnici e il Consiglio dei Ministri dava l'input politico sui vari dossier. Adesso è una situazione un po' pasticciata in cui non si capisce bene chi decide qualcosa, ed è una cosa molto pericolosa, perché succede quello che poi tu hai ben riassunto prima, anche citando Bruno Leoni, cioè se non c'è una forte potere decisionale politico, i gruppi organizzati, che invece sanno muoversi benissimo, riescono a infilare nei vari processi, nei vari passaggi del processo decisionale, le loro istanze, senza che ci sia nessuno che è poi in grado di fermarli. Perché se noi dovessimo dire chi ha deciso che i magistrati non vanno più in pensione a 70 anni, io non lo saprei dire, cioè non saprei dire chi ha preso questa decisione dal punto di vista formale, a chi va ricondotta, perché da quello che noi avevamo capito il governo aveva preso la decisione che i magistrati andavano in pensione a 70 anni, per cui per esempio anche il contestato capo della Procura di Milano, Edmondo Bruti Liberati, doveva cominciare a prepararsi ad andare ai giardinetti. Poi qualcuno ha deciso qualcosa di diverso, ma chi sia che ha preso questa decisione, francamente non possiamo saperlo, è una cosa un po' preoccupante. Qui c'è una questione anche di un certo rilievo istituzionale che secondo me riguarda la stampa, perché stiamo parlando di una cosa che poi avviene al Quirinale. E insomma, sul Quirinale è molto complicato per i grandi giornali, per i grandi gruppi editoriali, al netto della polemica che spesso ha avuto Berlusconi in questi anni per le vicende che riguardavano lui, le grazie e non le grazie, ma al netto di quello, diciamo, nei confronti di Quirinale sempre, chiunque sia l'inquilino pro tempore, poi nei confronti di Napolitano in questi anni, punto di riferimento, eccetera, eccetera, è molto complicato secondo me che i grandi giornali riescano a distinguere il proprio dovere, cioè criticare nel giusto, rispetto a un atteggiamento che io trovo di generale ormai condiscendenza. Tu hai appena citato il caso della Procura di Milano, secondo me la pressione esercitata da Napolitano sul CSM, arrivando a sbianchettare richieste che il CSM avrebbe inoltrato per risolvere un problema notevole, cioè il rapporto completamente alterato tra PM, in particolare Robledo, e il capo della Procura per l'assegnazione delle indagini, per il compimento di tronconi di indagine pur assegnati al PM che ne è competente, ha l'effetto che oggi vediamo. Cioè ci sono, di fronte al CSM che ha deciso di non far nulla per assecondare il Quirinale, ci sono gli imputati che a questo punto mandano gli avvocati per dire forse è meglio che mi interroghi il tal PM che l'altro, questo dà l'idea secondo me. Allora c'è questo problema di una difficoltà della grande stampa a criticare nel giusto il Quirinale o no secondo te? Beh, direi proprio di sì, diciamo ci sono, però questo problema si fonda su un equivoco, cioè se il Presidente della Repubblica è il notaio della Costituzione, è una bandiera umana, è come lo spirito del paese, eccetera, allora come dire, criticarlo vuol dire criticare le fondamenta del nostro comune sentire patriottico. Se il Presidente della Repubblica diventa un leader politico che sceglie i ministri, che cambia i governi, che appunto esercita il suo ruolo di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura con un approccio decisionista, quindi prendendosi delle responsabilità grosse, che ricordiamo porta davanti alla Corte Costituzionale il tema se le sue intercettazioni in cui parla di un processo possano essere rese pubbliche o no, eccetera eccetera, allora va trattato come un leader politico, non può avere lo status dell'intoccabile padre spirito della patria e contemporaneamente fare il leader politico. Se fa il leader politico va trattato come leader politico, cioè come Renzi, come Monti, come Berlusconi, eccetera eccetera. E invece i grandi giornali tendono a trattare anche le sue azioni da leader politico come se fossero le azioni del notaio della Costituzione, cosa che non è, proprio tecnicamente non è, cioè Napolitano ha dato un'interpretazione dei poteri a fisarmonica del Quirinale con una fisarmonica allargata come mai prima, e come dire, se fa questa scelta che è legittima perché finora si è mosso più o meno nei limiti della Costituzione, deve accettarne le conseguenze, che sono che i giornali, o con i giornalisti quantomeno, dovrebbero poterne scrivere come se fosse un politico come gli altri. Invece abbiamo visto che lui è un po' ipersensibile, una volta ha contestato le domande. Un'intervista che abbiamo fatto noi qui sul Fatto. Comunque, io ringrazio che esistano colleghi più giovani, più preparati, più autorevoli, che non hanno fatto errori che ho fatto io, come Stefano Feltri, e che ci esistano giornali col Fatto come il Fatto Quotidiano. Io non la penso sempre come loro su tutto, però si tenta di fare il proprio dovere. Grazie Stefano, continuate con Radio 24 in ascolto, appuntamento come a domani.